Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Vi ricordo il nostro sito radio24.it, dal quale scaricare in tempo pressoché reale tutte le puntate di tutte le trasmissioni. Quindi se non potete ascoltarlo di buon'ora alle 6.45, potete ascoltarlo tranquillamente anche via podcast, anche per abbonamento, quando volete. Lì troverete anche il profilo dei conduttori. Nel mio troverete anche il blog Guardie o Ladri, che vi invito a leggere e a commentare negli articoli che metto in linea. Poi vi ricordo la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, leggendo alcuni giorni fa, il 26 gennaio del 2010, le cronache del Resto del Carlino, mi sono imbattuto in un articolo abbastanza curioso. La storia di una dipendente del patronato INAS CISL che si sarebbe portata il lavoro a casa e per questo, anziché essere lodata dal patronato, è stata per questo punita. Questo è quanto racconta il Resto del Carlino. Poi c'è stato ovviamente il chiarimento da parte dell'INAS CISL. Le parti sembrano comunque abbastanza ancora lontane nelle interpretazioni, perché addirittura si legge nel Resto del Carlino che l'impiegata, che si chiama Marcella Guarini, vuole arrivare fino in fondo e parlare anche di questo con il ministro Brunetta. Noi abbiamo collegato per parlare di questa storia al contrario, no? Di questo abuso al contrario. Abbiamo Nicola Levantesi, che è il marito di Marcella Guarini. Ci troviamo ad Ascoli Piceno. Questa è una cosa che non avevo detto, la dico ora. Buongiorno dottor Levantesi. Buongiorno. E abbiamo il dottor Gaetano Grasso, responsabile di risorse umane patronato CISL. Buongiorno dottor Grasso. Buongiorno. Direi di partire da lei, Levantesi. Ci racconti la storia di sua moglie. Mia moglie Marcella lavora all'INAS CISL da più di 39 anni. Ha fatto una vita lavorativa senza nessuna mai richiamo né verbale né scritto. Il 21 del mese di novembre del 2009 si vede recapitare una raccomandata dalla direzione generale dell'INAS in cui le si apriva un procedimento disciplinare a suo carico per delle situazioni che, a dire dell'azienda, da parte dell'azienda, risultata essere negativa. Ecco, ci dica qual è la contestazione che è stata fatta. La contestazione principale che si fa è di aver lavorato durante l'intervallo, quindi durante la pausa pranzo, di aver lavorato dopo l'orario di lavoro, di aver portato delle pratiche a domicilio. Ho capito. Quindi tutto questo è risultato un grande problema per mia moglie, perché lei ha dato una vita, più 39 anni sono una vita data a un'azienda, e tutto pensava a meno che avere in ricambio questa, una roba di questo genere. Ho capito, benissimo, quindi praticamente tutto credeva tranne che essere ripresa, non per il fatto che fosse una fannullona, come dice e ama dire il ministro Brunetta, ma richiamata perché avrebbe lavorato troppo anche fuori dell'orario di lavoro. Allora, questa è la versione vista da parte di chi è ovviamente chiamato in causa. Noi abbiamo chiamato la CISL provinciale, la CISL di Ascoli Piceno, e sentiamo che cosa ci hanno risposto. In merito alla sua richiesta di intervista relativa alla questione della signora Guarini, sono a rappresentarle che la stessa è dipendente dell'INAS, che ha sede a Roma, e ogni decisione relativa al personale dell'istituto è in capo alla struttura centrale. Sono pertanto impossibilitato ad entrare dettagliatamente nella questione, ma può comunque rivolgersi al direttore del personale, dottor Gaetano Grassi, che tra l'altro è già stato informato della sua richiesta. Cordialmente, Antonio Angelini, segretario provinciale CISL. Allora, questa è la voce di Antonio Angelini, che è segretario provinciale della CISL Ascoli Piceno, che poi la CISL di Ascoli Piceno ha pensato bene di smuovere mezzo mondo per arrivare a noi attraverso dei canali incredibili, quando semplicemente bastava rispondere ciò che ci hanno detto. Io non riesco a capire perché il contraddittorio in Italia sia ritenuto una lesione della democrazia. E noi avevamo poi tra l'altro anche chiamato il dottor Grasso. Devo dire che il dottor Gaetano Grasso è stata la persona più disponibile di questa terra, ha detto sì, intervengo, ma perché mai? È quello che mi domando anch'io, quindi è un messaggio che lancio a chi nella CISL ha smosso mari e monti, credendo che noi volessimo criminalizzare qualcuno. Noi non è né nella mia natura né nella natura della radio. La prossima volta basta che rispondete a me senza smuovere, come dire, persone altolocate, tanto con me poi il sistema non funziona, quindi è inutile che ci proviate. Allora, dottor Grasso, buongiorno e grazie per la sua disponibilità. Allora, guardi, il resoconto del marito della signora pone delle contraddizioni. Ovviamente la signora, come tutti i dipendenti, ha il diritto alla pausa pranzo, per cui può capitare ovviamente di differire l'orario della pausa rispetto ai carichi di lavoro o alle persone che sono nelle nostre sedi. Il problema qual è? Il problema è di fondo. Ogni rapporto di lavoro, come lei sa, è disciplinato da norme e procedure. Per cui la signora in assoluta buona fede si è portata delle pratiche a casa, ma lei sa che le pratiche, l'istituto di patronato lavora su un mandato dei cittadini, non soltanto degli iscritti, le pratiche sono tutelate dalla privacy, per cui far uscire dei documenti senza autorizzazione, portarli a casa, avrebbe potuto far incorrere l'istituto in gravi rischi, per cui posta la buona fede della signora, l'anomalia che è stata rilevata dai nostri ispettori centrali, ma non nei confronti di Ascoli Piceno, per cui non c'è un intento persecutorio, siamo 1200 dipendenti, ma su tutto il territorio nazionale, era questa, che la signora si portava nella sua 24 ore di pratica a casa, e noi abbiamo contestato questo. Per cui, le ripeto, c'è stata una contestazione, c'è stato un richiamo alla signora ad adempiere delle procedure. Quello che mi meraviglia è che il signor Laventesi, essendo stato sindacalista, sa che la procedura va a tutelare inizialmente lo stesso dipendente che seguendola pedissequamente appunto non corre nessun tipo di rischio, l'istituto dal quale il dipendente lavora, ma anche l'utente che va a dare i propri dati sensibili riservati all'istituto di patronato e che siamo obbligati a custodirli presso la nostra sede. Ecco, dottor Grasso, io le domando questo, detto che non siamo un tribunale, non sono un giudice, quindi la vicenda poi seguirà i suoi canali, che saranno quelli amministrativi, penali o civili, a me questo non compete e non interessa. Ma le voglio chiedere questo, a suo giudizio, visto che lei è una persona così, come dire, disponibile, bisognava arrivare a tanto oppure non bastava in un primo momento dire cara signora Guarini o caro XY o Z o T, fai attenzione, quello che stai facendo non è possibile, quindi non puoi portare le pratiche a casa perché, come tu sai e io so, violano la privacy. Ecco, non è stato eccessiva la reazione del patronato rispetto all'azione eventualmente sbagliata della vostra dipendente? Noi siamo ispirati ai valori della Confederazione della CISL che ci promuove, lei lo sa. Lei, che conosce bene la legge, sa che la legge 300, lo statuto dei lavoratori, la legge 300 del 70, prevede che la contestazione disciplinare fatta a un dipendente non è altro che una richiesta di accertamento. Noi domandiamo, come in ogni rapporto di lavoro subordinato, al dipendente perché abbia omesso di rispettare una procedura, perché si è andato in deroga alla procedura che eventualmente lo tutela. Per cui lei deve leggere la contestazione al comportamento, le ripeto, in completa buona fede della signora, soltanto come un accertamento che la legge a noi come datore di lavoro e come, nel rispetto del 196, il tenutario della privacy ci obbliga, ci impone a rispettare. Abbiamo chiesto alla signora del perché. Benissimo, lei... io ho capito perfettamente, equiparabile diciamo così a quello che è un avviso di garanzia per un indagato, in maniera tale che possa sapere per il motivo per il quale appunto è indagato. Mi sembra molto chiaro, Laventesi la convince la ricostruzione, ma soprattutto quali saranno i prossimi passi che intendete fare? Ah, ma io vorrei precisare, se mi è consentito. Prego, siamo qui per questo. Vorrei precisare che è vero che la grande contestazione si svolge proprio nell'aver portato il lavoro a casa, ma le si contesta insieme a questo pratiche fatte in ritardo. Nell'ufficio non ci sono pratiche distribuite a tizio a caio, in un ufficio di 5 persone tutti fanno tutto. Allora, punto primo, le si contesta di lavorare delle pratiche in ritardo, che secondo il mio modesto avviso è responsabilità della titolare. Allora, una cosa mi si dovrebbe contestare a me lavoratore: o che faccio le robe in ritardo oppure che non lavoro durante l'ufficio, oppure che qualche cosa mi si deve contestare di concreto. Ho capito, lei dice che c'è qualcosa. Ho capito, lei dice c'è qualcosa che non torna in questa vicenda. Noi le parti le abbiamo sentite, siamo disponibili anche a tornare su questo argomento a seconda di come proseguirà questa storia con Grasso e con Levantesi. Grazie per i vostri interventi e per la vostra tranquilla dialettica. Grazie in regia Valeria Bernardi e in studio ad Elisabetta Fusconi e Roberto Calullo, vi auguro una buona giornata.